Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tumlin, fin dai primi anni di vita, era sempre con l'inseparabile Mulanina e con la moglie Elena, che lo aiutava nei lavori in campagna. Avevo 9 anni quando accade quell'episodio. Sono Proglio Mario, vivo a Diano d'Alba, nelle Langhe, ho 56 anni e con la mia famiglia conduco un'azienda agricola molto varia, leviamo struzzi e coltiviamo nocciole e poi le trasformiamo nel nostro piccolo laboratorio aziendale. Già in altri tempi si diceva la collina, come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava. E per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose. Era un modo di vivere. Apriamo con queste parole di Cesare Pavese dalla Casa in Collina, perché ci sono delle zone in Italia, ci sono state delle epoche in Italia, soprattutto in quelle zone lontane dalla città, le zone più rurali, quelle in cui si viveva a ridosso della terra, si viveva grazie con i campi e gli animali, in cui sorgevano ogni tanto delle figure particolari che diventavano una sorta di riferimento per quella comunità. Oggi il racconto di Mario parla esattamente di una di quelle figure, che probabilmente qualcuno di voi ricorderà, non lui nella fattispecie, ma qualcuno che gli assomigliava e che faceva quello che lui ha fatto per Mario, per la sua famiglia e per tutti gli abitanti della sua comunità. Lui si chiamava Tumlin. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui e noi raccontiamo storie, lo facciamo ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa. La storia di oggi appunto appartiene alla categoria, un po' alla categoria ricordi d'infanzia, ma appartiene soprattutto alla categoria persone e personalità che hanno preso un pezzo della tua vita e ne sono entrati e ora ne fanno parte. E grazie a Tumlin, Mario si ricorda benissimo di quel periodo e si ricorda di una figura a cui tutti facevano riferimento in maniera totalmente democratica. Era un modo di concepire la comunità per cui, senti, dobbiamo dirimere una questione, io e te non siamo capaci, cosa facciamo? Chiamiamo lui. 349-238-6666. Voi siete qui, Radio 24 è il nostro profilo Facebook, voi siete qui, R24 è il profilo Twitter. Se avete fatto mai da moderatori, se l'avete fatto gratuitamente, se l'avete fatto gratuitamente oppure no, come Valentina che scrive: ben più di una volta mi è capitato di essere mediatrice. Come prima attività faccio l'avvocato, è un avvocato coscienzioso e sempre propenso a favorire in ogni modo gli accordi, dice lei, perché un buon accordo è meglio di una lunga causa, virgolettato, saranno, forse sono di Perry Mason queste parole. Inoltre sono mediatore presso un organismo di mediazione, perciò la cosa mi capita molto di frequente anche in questa veste. Non sapevo che esistessero organismi di mediazione ad hoc. Margheritaina dice: come no, certo, perché familiare, immagino, soprattutto, no? Mediazione familiare, forse, per lo più. Giudice di pace, ah, ok. Però ultimamente ho sentito molto parlare dei mediatori familiari che cercano di mettere insieme moglie e marito quando forse non lo sono quasi più. 349-238-6666. Prendetevi questi 10 minuti. Se avete più di 50 anni, voi Tumlin l'avete visto, l'avete conosciuto e forse ci avete anche parlato quando eravate dei ragazzi. Se ne avete di meno, se avete anche la mia età, ci siete passati vicino. Se invece avete probabilmente meno di 30 anni, ascoltatevi questa storia, perché qualcosa da imparare qui secondo me c'è. In mente di quel giorno tanti piccoli particolari. In pochi minuti quell'umile contadino divenne per me un maestro di vita. Ricordo Tumlin fin dai miei primi anni. Abitava in fondo alla ripida discesa di Oddero, a non più di 50 metri dalla mia abitazione. Ma più che altro i frequenti contatti avvenivano nei due appezzamenti di terreno, alla Birria e alla Richeria, confinanti con le proprietà di mio padre. In campagna era sempre con l'inseparabile Mulanina e con la moglie Elena, che lo aiutava nei lavori. Io avevo 9 anni quando accadde questo episodio. Tumlin, in italiano Bartolomeo Caligaris, è un umile contadino, lavorava la terra, me lo ricordo a lavorare la campagna vicino ai nostri appezzamenti di terreno con la sua mula. Era un sabato pomeriggio quando arrivarono a casa i proprietari, fratello e sorella, proprietari di un terreno che mio padre aveva in affitto. Dopo le prime parole di circostanza, la discussione scoppiò subito forte e violenta. Il proprietario, alzandosi in piedi minaccioso, urlava inferocito e mio padre, per nulla intimorito, rispondeva a tono. La sorella pianse per tutto il pomeriggio e ogni tanto mia madre cercava di distrarla proponendo inutilmente qualche piccolo argomento di conversazione. Io cercavo di comprendere i termini di quella discussione, ma l'agitazione aumentava e a stento riuscivo a trattenere le lacrime. Dopo oltre 4 ore di discussione, ognuno era irremovibile nelle proprie posizioni. E allora fu mio padre che propose di nominare Tumlin come mediatore. E il proprietario non esitò a rispondere: Tumlin è una persona giusta, per me va bene. Incaricato di andarlo a chiamare, non potei fare a meno di esprimere le mie perplessità, la mia meraviglia. Ma come? Ma Tumlin Framiglio? Scapis, mi disse mio padre, vai a vedere se può venire subito. Con il cuore in gora, raggiunsi in un baleno la casa di Tumlin. Lena, vedendomi così agitato, mi fece subito sedere e mi porse un bicchiere d'acqua. Oh, povero Matot, così lo capitei. Nel raccontare quel poco che avevo capito della vicenda, Lena mi bersagliava di domande e io cercavo con gli occhi l'aiuto di Tumlin, che però esitava a intervenire. Evidentemente quell'interrogatorio gli serviva per capire e quindi per questo lasciava a Lena l'iniziativa. Finalmente esclamò: adesso basta, Ndoma, adesso basta, andiamo. From Redwood Forest, the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Volai le scale e fui subito nel cortile. Ma Tumlin procedeva lentissimo, con le mani incrociate dietro la schiena e lo sguardo fisso a terra. Ogni tanto mi rivolgeva qualche piccola domanda, obbligandomi a un continuo andirivieni. Davanti alla casa di Oddero rallentò ulteriormente il passo, costringendomi ad una fermata che ritenevo assolutamente inopportuna. Si sedette sul muretto al tempo circondato da un fitto canneto. Di lì si sentivano a tratti le grida della lite ancora vigorosa ed era difficile per me mantenere la calma e la tranquillità che invece percepivo in Tumlin, seppur pensieroso. Vense, magna minuta. E mi rivolse ancora qualche domanda intervallata da lunghi tratti di silenzio. Più disteso e quasi sorridente a un certo punto esclamò avviandosi: e lo capì, Andoma. Entrati in casa, il silenzio fu tombale. Si percepiva nell'aria la presenza di quest'uomo umile che tutti rispettavano. Per me lì è stata una scoperta quel giorno lì, però l'ho scoperto parecchi anni dopo che lui ha fatto parecchi di questi interventi. L'ho scoperto proprio con questa associazione Arvangia, facendo molte interviste con altri anziani del posto, e molti mi hanno raccontato dei suoi interventi da paciere, proprio da mediatore. Questa cosa l'ha fatta con una grande saggezza e soprattutto senza avere nessun compenso. Fu brevissimo. Nessuno osò parlare se non interrogato. Dopo aver acquisito pochi elementi da entrambi i contendenti, emise la sua proposta di mediazione. Per me va ben, disse subito mio padre. E il proprietario del terreno non tardò a dire: anche per me. La stretta di mano fra mio padre e il contendente fu lunga e vigorosa e terminò solo quando Tumlin vi posò sopra la sua mano. Io ero letteralmente a bocca aperta. Ora scherzavano, si davano pacche sulle spalle come nulla fosse successo. Mi sembrava impossibile che Tumlin avesse trovato così semplicemente la soluzione. Tutto andò come previsto e senza il minimo intoppo. Ognuno rispettò i propri impegni. Io ammirai e osservai a lungo Tumlin. Dagli appezzamenti di terreno adiacenti potevo scorgere ogni suo movimento e spesso lo spiavo nascosto dietro quel piccolo rivas. Erano continue le attenzioni che riservava alla mula, a cui porgeva qualche ciuffo d'erba ogni qualvolta le fasi delle lavorazioni in vigna lo portavano a passarle vicino, e poi, sempre, una lunga carezza sul dorso. Lei lo ricambiava con uno sguardo intenso e sincero, tutto il giorno rivolto verso la sua persona. Più tardi, quando per raggiunti limiti di età dovette essere sostituita da un freddo mezzo meccanico, Tomlin mostrò apertamente tutta la sua avversione ed in parecchie circostanze anche un odio smisurato verso quell'attrezzatura senza cuore. Ancora colpito da quell'episodio, presi coraggio e gli chiesi il segreto di tanta saggezza. «Un di t'lo dis», mi rispose. Non si dimenticò della promessa e qualche anno dopo, ormai adolescente, mi chiamò all'ombra di quel melo e mi trasmise uno degli insegnamenti più profondi della mia vita. «In ogni controversia», mi disse, «ma anche in ogni semplice rapporto, cerca sempre prima di giudicare con la tua testa di immedesimarti in quella della controparte e capirai meglio le sue ragioni, ma accerta sempre prima la sua buona fede». Compresi quelle parole parecchi anni dopo e ho il grande rammarico di non avere mai trovato il modo di dirgli grazie. Ed è soprattutto dopo la sua morte che sono emerse le sue grandi doti di umanità, di competenza e di professionalità. Dall'ombra e dal silenzio parecchie sono le testimonianze di interventi diretti e concreti in favore delle famiglie più bisognose. Fu punto di riferimento in numerose controversie, anche su argomenti tecnici, difficili ed impegnativi come la definizione di strade interpoderali o diritti di passaggio. Sempre con discrezione, umiltà e senza compensi. Stridente il contrasto con la società odierna che mostra parecchia difficoltà nel generare uomini come Tomlin. Al suo posto una schiera di professionisti che spesso alimentano e orientano le liti nel loro interesse. E soprattutto al posto di quelle robuste strette di mano, contratti lunghi e farraginosi, completati da una miriade di postille che trovano sempre il modo di dire tutto e il contrario di tutto. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Mario è davanti a una platea di bambini nella foto che ci ha mandato e che trovate sempre sul sito radio24.it, la nostra pagina, che voi siete qui. È estate perché è in maniche di camicia, alle sue spalle ha una specie di pupazzo costruito con della paglia, mi sembra di vedere. È nella piazza di un paese e ha un microfono in mano, ma non ho idea di che cosa stia dicendo. Pronto Mario? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Molto bene. Dove ti trovi in questa foto? Ma è lì, è una manifestazione organizzata dalla Coldiretti, che appunto è il progetto Educazione alla Campagna Amica, in cui si pubblicizza proprio le attività delle fattorie didattiche. Siamo in una piazza centrale di Cuneo. Scusami, che cos'è la fattoria didattica? Ma è un bel progetto della Coldiretti, noi abbiamo aderito fin dall'inizio, ormai più di 15 anni fa, e sembrava una cosa stupida perché... si diceva, ma cosa può dire un contadino delle scolaresche? E invece nel tempo si è dimostrata una cosa molto interessante, perché le scolaresche ritornano e vanno via contente. E voi raccontate insomma cosa coltivate, come lo fate, cosa producete sostanzialmente? Ma sì, oltre a quello abbiamo dei progetti ben definiti, per esempio noi alleviamo struzzi, quindi l'uovo di struzzo praticamente grande e ti permette di analizzarlo bene, è una struttura genetica veramente eccezionale. Come sono da allevare gli struzzi, Mario? Sono difficili? No, è un animale che basta conoscere e poi insomma è semplicissimo, un animale. Ma non sono cattivi, non è vero che sono cattivi, che sono aggressivi? Io credo che nessun animale sia cattivo, l'animale è territoriale, difende il suo territorio come noi difendiamo la nostra casa. Giusto. Quando uno entra in casa è molto più semplice di quanto si pensi. Molto, sì. Mario, torniamo un attimo a Tomlin, tra l'altro scusa la pronuncia è giusta, no, perdonami la pronuncia del piemontese, perché nonostante sia di Novara, come tu sai che sei delle Langhe, Novara è un po' un Piemonte semilombardo, quindi in realtà sì. Il Piemonte vero siete un po' voi e un po' la Torino Sabauda per altri versi. Adesso mi prenderò chiaramente le ire di tutti i novaresi e vircellesi, anche se Vercelli è un po' diverso, quindi ti chiedo scusa per il dialetto, mia madre sarà strappata i capelli perché dice che somma parlando dialetto, ma d'altra parte questo è quello che so fare. Tomlin, che cosa significa esattamente? È Bartolomeo, tutti i Bartolomeo in piemontese dalle mie parti si dicono Tomlin, okay. È un diminutivo viene chiamato così, quasi tutti i Bartolomeo che ci sono. Quanti anni aveva più o meno Tumlin quando è morto? Ma era abbastanza anziano, era credo 86 anni. 86, e tu quindi te lo ricordi bene? Quanti anni avevi tu quando lui è mancato? Cioè sei riuscito a conoscerlo un po' da ragazzo, giusto? Sì, l'ho conosciuto bene, però devo dire, quando ho cominciato ad apprezzare le storie dei nostri anziani, lui non c'era più. Questo è un po' un classico, però bisogna farci la pace con questa cosa. Scusami, quindi lui era semplicemente diventato un riferimento, no? Tu dici, quando c'era da mediare una controversia, chiamavano lui, ma com'era nata sta cosa? Qualcuno lo sa, ha idea? Cioè com'è che a un certo punto Tumlin, andiamo a chiamare Tumlin? Io credo che fosse una persona molto saggia, e questo io l'ho scoperto oltre a questo episodio parecchi anni dopo, quando con l'associazione Arvangia, che è un'associazione culturale che cerca un po' di fare quello che fai tu nella tua trasmissione, di recuperare storie. E ho fatto parecchie interviste ad anziani e molti mi hanno parlato di questi suoi interventi fatti direttamente come mediatore. Lui ha dei parenti, ha dei figli o dei nipoti? C'è la figlia che abita sempre qui vicino a noi. E lo sa della storia di oggi? Sa che parlavamo del suo babbo? Non gliel'ho detto, no. Magari poi le fai sentire il podcast. Sì. Senti, invece Mario, devo lasciarti, però sono sempre incuriosito, che macchine agricole hai? Cos'hai? Un trattore? Beh, un trattore ce l'hai per forza. Sì, trattore, qui siamo in collina, nelle Langhe, tu le conoscerai. Chi non le conosce le Langhe? Sono un po' il posto più figo del nord. Oddio, cosa ho detto? Adesso arriveranno quelli del Trentino, quelli della Lombardia Alta, quelli del Veneto. Comunque, insomma, sono posto di turismo vero e proprio, quindi sì. Dimmi che tu hai quelle colline che sono l'immagine che noi abbiamo delle Langhe, quelle bellissime, piene di viti. Sì, ecco, oltretutto qui c'è un bel belvedere, una visione a 360 gradi proprio a Diano d'Alba, una visione sulle colline, sugli noccioleti, ci sono anche molti turisti che apprezzano questa cosa. Mario, grazie mille per la storia e la chiacchierata, a presto. Grazie a te, Matteo. Ciao, buona serata. Ciao. 349-238-6666, no, al momento ancora nessun insulto riguardo al posto più figo del nord. Io vi ricordo, prima di chiudere, che noi ci sentiamo ovviamente domani in diretta da Roma, poi ci sentiamo venerdì e poi ci sentiamo invece lunedì da Milano, non dalla radio ma dalla sede, dal Pirelli Store di Corso Venezia numero 1, dove potete venire a vedervi la diretta. Sono arrivate un sacco di storie di corse, non ce la faremo a farle tutte ovviamente lunedì, perché abbiamo sempre solo mezz'ora, ma le teniamo da parte e le raccontiamo, perché sono tutte molto molto belle. Leggo un ultimo messaggio che mi dice: è un detto popolare quello che dice, meglio un buon accordo che una grassa sentenza, proverbio popolare. Grazie ancora a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie soprattutto a Mario, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Donatella Piatti, e vivo tra Istanbul, Verona e Milano. La storia di domani è la mia e parla di un risotto molto, ma molto particolare. Questa è la mia storia e io sono qui.